Lei oggi cosa prova per Umberto Bossi? Sono stato talmente sempre oggetto delle critiche e delle offese di Bossi che francamente non vorrei ripagarlo con l'uguale moneta. Bossi oggi esce di scena, di fatto si parlerà tanto delle crisi dei partiti, ma sfido io a pensare se c'è un altro partito politico italiano in cui l'impasto tra le vicende familiari e le vicende finanziarie è uguale a quello della Lega. Francamente basta il buon senso per capire che è un'anomalia tutta padana. Ma io credo che in momenti come questo ci voglia un... è inutile dare giudizi, è inutile dare il calcio dell'asino, non mi piace. Bossi esce di scena, probabilmente su questo epilogo ha inciso fortemente anche la malattia che lui ha avuto in questi anni, che gli ha fatto perdere un po' il controllo della situazione. Certamente è stato un grande protagonista della politica italiana.